api spegnetela, o ch'io fra poco col sangue vostro la spegnerò. Era già figlio prima d'amarti, non può frenarmi il tuo martir. Madre infelice, corro a salvarti. We'll be right back.